Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di Smart City di ieri sera abbiamo fatto la conoscenza con le vertical farm, grattacieli o comunque insomma edifici simili a grandi serre adibiti alla coltivazione di ortaggi in città, ma che possono integrare per esempio anche l'allevamento di pollame o di pesci. Per ora ne esistono solo piccole versioni pilota, ma quello che abbiamo scoperto ieri è che l'idea non è affatto paradossale come potrebbe sembrare. Infatti all'interno delle vertical farm si può coltivare cibo a ciclo continuo con rese elevatissime, senza timore di eventi atmosferici estremi, senza fare uso di pesticidi o diserbanti, dato che parassiti e piante infestanti vengono letteralmente chiuse fuori da queste grandi serre. Inoltre le vertical farm sono concepite per riciclare al loro interno acqua e fertilizzanti, riducendone drasticamente il consumo. E infine, se noi produciamo questi alimenti direttamente in città, cioè laddove vengono consumati, è chiaro a tutti che viene quasi azzerato il trasporto e che anche gli imballaggi potrebbero essere ridotti al minimo. Insomma, tutto questo fa sì che, paradossalmente forse, coltivare ortaggi nelle vertical farm abbia perfettamente senso dal punto di vista energetico e ambientale. Stasera scendiamo allora un po' più nel dettaglio per parlarvi di alcuni progetti, ma soprattutto di uno, Skyland, la vertical farm progettata dall'Enea, di cui parliamo ancora una volta con l'architetto Gabriella Funaro, che di Skyland è uno degli ideatori. Lei è ricercatrice Enea ed è tornata a trovarci per questa seconda puntata dedicata alle vertical farm. Buonasera Funaro. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo fatto rapidissimamente un ripasso di che cosa sono le vertical farm, le chiedo invece che cos'è Skyland. Tutto nasce da un progetto, da un'idea, quella dei 5 zeri. Sì, Skyland è la vertical farm dell'Enea, un ecoedificio urbano che integra in un'unica struttura tutta la filiera agroalimentare, partendo dalla produzione indoor fino alla commercializzazione, alla distribuzione e al consumo degli stessi prodotti in loco. Quindi tipo al piano terra c'è un supermercato e ai piani superiori si coltivano le cose che si vendono al piano terra, più o meno. Esattamente, e poi c'è la ristorazione, c'è il fitness center, c'è un auditorium, ci sono tutte quelle altre attività che possono essere contemplate all'interno del quartiere dove noi immaginiamo di poter realizzare la vertical farm, che dovrebbe consentire di provvedere all'approvvigionamento del fabbisogno alimentari dei cittadini di circa 20.000-25.000 abitanti. 20.000 abitanti, quanto sarebbe grosso questo grattacielo? Dovrebbe essere a una trentina di piani, una 30 piani di serra, che darebbero circa l'equivalente diciamo di 4,2 ettari produttivi. Come peculiarità ha i 5 zeri. Vogliamo che l'edificio sia completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, questo perché l'Enea, ovviamente, l'ente di ricerca, è una delle specialità dell'Enea questa. Come viene reso indipendente dal punto di vista energetico? Dunque, noi abbiamo immaginato, nonostante il fabbisogno sia di energia sia molto elevato, di utilizzare i pannelli fotovoltaici in facciata. 8.000 metri quadrati dovrebbero coprire tutta la facciata sud, una pompa di calore geotermica che potrebbe estrarre il calore appunto dal terreno, ovviamente il biogas che sarebbe prodotto sia dagli scarti di lavorazione della struttura, ma anche diciamo utilizzando tutti i rifiuti solidi urbani del quartiere in cui verrebbe inserito, che convergerebbero nel, diciamo, nell'impianto, nel digestore alla base di Skyland, a cui si buttano dentro appunto gli scarichi e dei batteri producono metano, e voi utilizzereste questo metano per riscaldare la struttura, per produrre energia elettrica, per l'illuminazione. Esatto. E quindi zero energy, zero power, questo è il primo zero. Quali sono gli altri quattro? Dunque, l'altro è lo zero emissioni zero, grazie al fatto appunto delle fonti alternative, zero waste, cioè zero rifiuti, grazie al riciclaggio di tutto ciò che viene prodotto e utilizzato all'interno, zero distance, quindi chilometro certo, zero, e zero pesticidi. Senta, ma quanto sarebbe costato realizzare Skyland? Ma noi abbiamo fatto una stima di massima, diciamo che non meno di un 150 milioni di euro. Ecco, questa è la ragione per cui poi c'è stata qualche difficoltà quando si è trattato di decidere se farla o non farla realmente, perché di Skyland si è parlato qualche anno fa, sembrava che un progetto destinato a entrare a far parte dei progetti dell'Expo, poi sappiamo tutti che insomma la vicenda dell'Expo è stata tutt'altro che lineare, questa idea è stata abbandonata, ma all'Enea non si sono arresi e voi siete tornati recentemente alla carica con un progetto che è un po' meno ambizioso, ma che potrebbe essere un buon progetto pilota, vero? Sì, esattamente, cioè noi stiamo adesso studiando un'unità dimostrativa, chiamiamola multifunzionale, che un po' ripercorre gli stessi principi di Skyland, quindi verticalità, modularità, riciclabilità, sostenibilità e autosufficienza dal punto di vista energetico, e quindi farne un prototipo mobile, un laboratorio sperimentale che a questo punto però utilizzerebbe dei containers per la produzione agricola indoor. È un progetto che potrebbe essere molto interessante perché potrebbe facilmente essere trasferito in qualsiasi contesto del pianeta, diciamo, sempre con colture idroponiche all'interno di questi containers illuminati sempre con questi sistemi a LED, dove comunque possiamo garantire una buona produzione di questi ortaggi, perché questi box potrebbero dare circa, diciamo, un 10.000 kg anno, se per esempio parliamo di insalata. Cioè un singolo container 10.000 kg di insalata? All'anno, sì. Ah, ogni container grosso modo potrebbe dare un 26 kg al giorno di insalata, che quindi potrebbe essere sufficiente per alimentare un 250 persone ogni giorno. E allora l'Expo ha accettato la vostra proposta? Si farà questa operazione nel 2015? Siamo in attesa di conoscere se effettivamente potremo portare all'Expo questo prototipo del vertical farming del futuro. Grazie Gabriella Funaro. Grazie a tutti. È tutto, a domani.